Intanto però da gennaio riprende il tour con il repertorio classico delle Sorelle Marinetti, è così? Certo, ricominceremo a girare in lungo e in largo l'Italia con il nostro spettacolo Non ce ne importa niente, insieme all'orchestra diretta da Chicco Maniscalchi, l'orchestra Maniscalchi appunto, praticamente si rifà a quello che erano le orchestre swing del tempo. Ci ritroviamo tra poco con 140 caratteri per parlare ancora di musica. 140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Ancora musica nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Parole e dintorni, ufficio stampa, Milano. Con l'album Nei tuoi occhi racconta l'amore, ma lo fa senza parole, suonando la sua chitarra. Roberto Fabbri. Vogliamo iniziare da quando a un anno passavo le ore a suonare una chitarra? Così a un anno? Ce la prendiamo larga, no? A un anno? Sì, c'era una chitarra a casa mia, no? Lasciata da un mio zio, nessuno suonava a casa. E io mi divertivo, infatti ho le foto, a suonare questa chitarra perché il suono dello strumento, delle corde pizzicate, mi piaceva, era accattivante per me. Ci passavo molto tempo, pomeriggi interi, e anche nella memoria, oltre alle foto, ce l'ho questa memoria di questa chitarra che mi divertivo a pizzicare. Poi, arrivato all'età di 6 anni, chiaramente volevo qualcosa di più e chiesi ai miei di mandarmi a lezione di chitarra. Poi sono entrato in conservatorio, ho finito il conservatorio, ho iniziato la carriera di chitarrista. Ecco, così è nata però da questo strumento lasciato a casa. Perciò io credo che sia importante che magari anche i genitori, no, che hanno dei figli e che vogliono trasmettere questa passione per la musica, comprino uno strumento e lo buttino da una parte, lo lasciano da una parte, che così un giocattolo sicuramente utile per la crescita dei propri figli. E una particolare confidenza con uno strumento, tanto che sei approdato poi negli anni anche nella patria di questo strumento, conquistandola, possiamo dire così? Beh sì, diciamo che nel 2010 io ho avuto questo premio André Segovia, che è la testimonianza, perché poi io ho scritto molti libri, più di 40 testi per imparare a suonare la chitarra, e sono stati tradotti in varie lingue, in francese, in spagnolo, tedesco, anche in cinese. Però proprio in Spagna questi metodi hanno avuto un grandissimo successo, oltre che in Italia, e molti conservatori l'hanno adottati. Per me è stata chiaramente una grande soddisfazione, perché vedere che i miei, a sei, quando ho iniziato a suonare la chitarra, pensare che un giorno migliaia di studenti in Spagna avrebbero iniziato a suonare la chitarra sui miei libri, era impensabile. Poi questo premio, appunto, André Segovia mi è stato dato, e con questo premio mi è stato anche commissionato un concerto che ho recentemente eseguito in prima esecuzione a Madrid per i 25 anni dalla scomparsa del maestro spagnolo, appunto, di André Segovia. Proprio il Festival André Segovia mi ha commissionato questo concerto per chitarra e orchestra, e anche questa è stata chiaramente una grande soddisfazione per me, perché vedersi riconosciuto unico chitarrista italiano, diciamo, nella patria dello strumento a 6 corde, è stata una grandissima emozione, soddisfazione, tutto. un'attività discografica. Tu racconti storie attraverso la chitarra e con questo nuovo album anche con qualcosa di più. Quindi la chitarra può servire per raccontare. Assolutamente, io credo che un aspetto molto importante della chitarra è proprio la sua capacità evocativa. È uno strumento estremamente evocativo, può ricordare momenti, persone. È il suono, che già è il suono di questo strumento che ha queste capacità. La musica in generale è chiaramente evocativa, ma la chitarra in particolare, non perché io sono un chitarrista, credo che abbia questa particolarità. E allora questo disco è formato da canzoni, fondamentalmente da racconti in forma di canzone, che non usano le parole ma usano solamente queste sei corde. Ho scritto sei brani per chitarra sola e poi cinque brani invece insieme a un quartetto di chitarra, un quartetto con cui suono da quando ero studente in conservatorio, e perché mi piace anche condividere questa passione con altri. E poi sempre in questo disco ci sono anche i sei brani del concerto per chitarre e archi che ho scritto per Segovia, e li ho anche inseriti in questo disco, perciò suono insieme a un quartetto d'archi, perciò è con la chitarra che dialoga con altri strumenti, in questo caso con gli archi. Contano i titoli, un po' ovviamente lo racconta la chitarra. Ma il leitmotiv è sempre l'amore. L'amore che può essere per una persona, perché come dico in questo brano, nei tuoi occhi, i miei occhi non hanno bisogno di parole, e così anche la musica, no? Non ha bisogno, perciò se uno si guarda con la persona che si ama non c'è bisogno di dire qualcosa, e io anche con lo strumento posso trasmettere un'emozione, un sentimento senza aggiungere altro. Ogni brano chiaramente ha una sua motivazione, dove però veramente l'amore è sempre presente. Anche il brano che è dedicato, che è il pezzo centrale poi del concerto per chitarra e orchestra, che è dedicato a Segovia e che si chiama Il Cavaliere Errante, è dedicato all'amore per questo strumento che io a cui ho dedicato una vita, ma a cui anche André Segovia ha dedicato una vita, e lui è il cavaliere errante di questa chitarra, che l'ha portata in giro per il mondo, l'ha fatta conoscere, perché prima di lui la chitarra era coltivata solamente da un ristretto gruppo di amatori dello strumento, di conoscitori. Invece lui è riuscito a portarla tra la gente, nei grandi palcoscenici, e gli ha dato dignità come il pianoforte, come il violino e degli altri strumenti. E ora che la chitarra classica è un po' meno conosciuta, io sto cercando di riportarla tra la gente, tra la gente comune, che poi quando sente il suono appunto di questo strumento pizzicato con le dita non può che innamorarsene. Thank you. abbiamo assistito al successo di pianisti più o meno pop, più o meno jazz, anche che hanno scalato le classifiche col loro strumento. Quindi questa è anche una nuova scommessa. Peraltro sei entrato nella scuderia di Sony Classical, quindi un'etichetta prestigiosa, quindi la scommessa adesso è quella di seguire le orme con un altro strumento? Ma io credo che ci sia proprio anche nel pubblico un po' un desiderio di suoni tra virgolette puliti, no? Che possono provenire da uno strumento classico come appunto è stato come il pianoforte e come anche la chitarra, perciò senza tramiti, no? C'è solamente le dita del musicista e lo strumento, senza bisogno di amplificare o mettere effetti o cose particolari, con un linguaggio comprensibile e comunque semplice ma non banale, che sappia arrivare un po' al cuore della gente. Chiaramente essere entrato nella scuderia Sony per me è veramente una cosa importantissima, anche perché diciamo sono il primo italiano chitarrista classico che entra in questa prestigiosa scuderia, perciò spero di tracciare una via che dia modo di farla conoscere ancora di più questo strumento. Ed è tutto per il 140 caratteri di questa settimana. Continuate a seguirci ogni giorno seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. L'appuntamento in radio è per domenica prossima.